Una delle cose più belle che l'uomo può fare è quella di conoscere, insieme anche a quella di amare. Ma la conoscenza sazia il cuore dell'uomo. Per questo noi, fin da bambini, fin da grandi, vogliamo conoscere la nostra vita attorno a noi. Ma è bello anche conoscere il passato, conoscere le fondamenta della nostra civiltà, della nostra storia. Guardate che la stessa cosa vale da un punto di vista cristiano. Per questo, quando ho visto che la liturgia oggi ci offriva la possibilità di celebrare la messa in onore di Sant'Efrem, io l'ho preso in considerazione. Ho detto, chissà se la mia gente... Tutti conoscono Sant'Efrem. Dubito. E allora vi dico quattro parole su questo santo, in modo che possiamo andare anche noi alla scoperta dei capitali della nostra fede. Anzitutto è vissuto molti anni fa. È nato all'inizio del 300 dopo Cristo. Quindi 1700 anni fa. È ricordato perché? Primo perché fu santo, anzi ultimamente nel 1900 il Papa l'ha fatto anche dottore della Chiesa, cioè i dottori della Chiesa sono coloro che oltre a essere santi sono scrittori, sono catechisti, hanno insegnato secondo verità al popolo cristiano. E infatti lui mise in piedi, non più giovanissimo, una scuola teologica. È un periodo in cui io sento molto questo tema, perché bisogna insegnare al popolo cristiano. Io ritengo che oggi il popolo cristiano, tranne in voi che siete come me un po' avanti negli anni e quindi avete usufruito ancora di una formazione dei decenni scorsi molto solida, oggi il popolo cristiano è poco più che analfabeta sulla sua fede. C'è bisogno di andare a scuola, di fare catechesi. Mise in piedi una scuola teologica e fu particolarmente attento alle persone poco culturalizzate. La sua catechesi era una catechesi molto popolare. Io me lo prendo come patrono perché anch'io cerco di parlare alla gente, dico col linguaggio del mercato, perché la gente possa comprendere facilmente anche cose profonde, uno stile semplice e ricco di poesia, tant'è vero che fu chiamato la cetra dello Spirito Santo e il poeta della Beata Vergine Maria. Che bello! La cetra dello Spirito Santo, Sant'Efrem viene anche in me. Vieni anche nel tuo popolo, porta il tuo carisma di cantare allo Spirito Santo che è l'anima della nostra fede, l'anima della Chiesa e donaci di amare con sapienza, con poesia Maria Santissima. Ecco, magari Sant'Efrem non lo incontreremo più, se non fra un anno ancora. Però mi premeva dirvi due parole su di lui perché impariamo ad andare alla ricerca, leggiamo tanto gossip, tanto pettegolezzo sulla situazione del mondo e impariamo invece ad andare alla ricerca, certo attraverso la stampa cattolica, attraverso un uso intelligente e religioso anche di internet, che è una miniera straordinaria. Se per caso qualcuno di voi oggi volesse digitare sul computer o sul cellulare Sant'Efrem, io penso che qualche cosa ne ricaverebbe, e io chiedo a Sant'Efrem di benedirmi che gli ho fatto pubblicità.